Allora, buonasera, benvenuti, ben ritrovati e soprattutto buon 2013 a tutti. Con questa sera riprendiamo i nostri incontri che hanno tendenzialmente una cadenza bisettimanale, quindi tenetevi liberi lunedì e giovedì, ecco che di solito c'è sempre qualcosa in questa biblioteca. Iniziamo direi proprio in bellezza, perché questa sera abbiamo con noi due ospiti di grande riguardo. È con noi Loredana Repucci, che è l'autrice, la coautrice del libro E se domani una farfalla, e poi abbiamo con noi Bruna Maria Dall'Ago Veneri, che conoscete, ha già collaborato con la biblioteca nella presentazione in occasione di numerose iniziative. È un taglio nuovo quello che inauguriamo con oggi, e grazie appunto anche alla collaborazione delle nostre due ospiti, perché la biblioteca, come abbiamo anticipato ancora nel corso del 2012, sta cercando di ampliare i propri orizzonti, le proprie così competenze da un punto di vista della documentazione, del materiale da offrire ai cittadini. Quindi, se da una parte proseguiremo col discorso della documentazione locale, che è un po' la nostra caratteristica, dall'altra è la memorialistica, che vorremmo anzi incentivare con l'aiuto di più persone, dall'altra c'è sicuramente il discorso della saggistica, dello scibile, che vorremmo documentare a tutto tondo, e quindi benvenga se possiamo iniziare con questa serata anche ad introdurre un discorso più scientifico, più legato alla matematica, alla fisica, anche se partiamo da un thriller, ma l'ospite che abbiamo con noi è una persona di rilievo nell'ambito della fisica e della matematica, in cui laureata e ha collaborato sin da giovanissima con industrie, svolgendo un'attività in questo settore. È una necessità che abbiamo rilevato, in quanto manca forse l'occasione spesso di poter leggere la realtà anche in termini scientifici, e vengono date priorità alla storia, alla storia dell'arte, alla narrativa, ma spesso non riusciamo ad avere anche altre prospettive, non ci vengono offerte, e quindi la biblioteca vuole così intraprendere questo cammino. Nel corso delle settimane vi metteremo al corrente anche di quella che sarà la programmazione da qui a giugno. E ecco, sulle sedie avete il modulo di iscrizione per chi non fosse iscritto, non è obbligatorio, ma è semplicemente una possibilità in più che avete per accedere gratuitamente ai nostri servizi, e soprattutto per noi di raggiungervi con le informazioni e le comunicazioni delle nostre iniziative e dei nostri servizi. Io cedo subito la parola alle nostre ospiti, vi porto i saluti dell'assessore Tomasini e ringrazio tantissimo Loredana Repucci e Bruna Maria Dall'Ago Veneri di portarci fortuna, ecco, con questo nuovo anno. Grazie. Grazie. Due parole velocissime da parte mia e poi naturalmente tutto lo spazio all'autrice. E due parole volevo dire, ragazzi, speriamo di portare fortuna, è proprio il nostro sogno quello di portare fortuna, e poi portare fortuna con un titolo così leggero ed aereo, il titolo E se domani una farfalla, mi sembra praticamente di buon augurio. Ecco, dicevo, un titolo così leggero perché in verità il problema del quale si tratta, ed è visto sotto forma di thriller come poi vedremo, sono dei problemi di grandissima attualità che ci toccano tutti e che in qualche modo ci inquietano tutti. Però questo bellissimo romanzo, questo thriller, nello spirito del thriller appunto, che è una forma particolare che dà la possibilità di entrare in mondi anche diversi, in mondi complicati, con una forma di leggerezza, e di nuovo l'ala della farfalla, in qualche modo sì, perché il racconto può essere leggero anche se la tematica può essere pesante, ecco, sicuramente sarà una cosa che vi affascinerà in maniera particolare. E non è il primo libro di Loredana Repucci, anche se, come è stato detto prima, è un libro scritto a quattro mani. Scrivere a quattro mani è abbastanza difficile e complicato, anche se la storia di queste quattro mani inizia dal libro precedente, che è quello che voi vedete lì, Intrigo, e come lo vedete, e che mi sto suggerendo il titolo, si chiama Intrigo inquietante, ecco, perché nell'Intrigo inquietante, che tratta di un altro dei grossi problemi, di grossi problemi e delle grosse scoperte, delle nuovissime o abbastanza nuove, perché poi sul nuovo c'è sempre da discutere, della scienza, che è la fusione fredda, l'introduzione è stata fatta da una scienziata, da una che insegna, che lavora, voglio dire, lavora nella ricerca, ed è questa appunto Antonella De Ninno, con la quale è scritto questo ultimo libro. Esatto. Scritto a due mani, dicevo, a due mani, nel senso che ci sono anche due grafie, però le cose molto ben intrecciata, non riuscite, io vi dico che il libro l'ho letto anche più di una volta, ma non sono riuscita, in verità, sì, ci sono riuscita, ma insomma è con una certa difficoltà che tu riesci a scollare o a dividere una persona dall'altra, anche perché chiaramente c'è una supervisione, e questo succede sempre anche in un libro scritto a due mani e quattro mani, insomma ce ne sono molti di scritti a più mani, comunque c'è sempre una forma di supervisione in qualche modo. Ecco. Questo è velocissimamente quanto. Di che cosa tratta questo libro? Io proporrei come primo impatto, e mi sembrerebbe interessante, la prima parte delle tue diapositive. Dopodiché entriamo proprio nel profondo del discorso. Forse... Dimmi? Beh, sì, niente. Allora, diciamo che proviamo a vedere se funziona. Ecco, prova un po'. Sì, non funziona. No, è lo stesso, ma non andare con... Sì, no, comunque... diciamo che fra i vari problemi che la scienza ci pone, quello più forse inquietante è la possibilità che avvengano delle cose che non sappiamo cosa sono. E siccome diciamo siamo in epoca in cui ogni tanto ci sono dei terremoti, anche un po' troppo spesso per quanto riguarda, diciamo, la statistica, viene da porsi una domanda: se è possibile fare dei terremoti artificiali. In effetti questo è possibile, è avvenuto, almeno così si dice, e questo si realizza tramite delle onde elettromagnetiche che vengono scatenate, diciamo, fatte rimbalzare sulla ionosfera e poi scaricate, diciamo, su qualunque punto della Terra. Questo libro narra appunto la storia di una scienziata che viene chiamata a fare degli studi molto interessanti e si accorge di star studiando qualche cosa di molto pericoloso per l'umanità. E questa storia è molto, si svolge in un secolo sostanzialmente, perché parte ancora da Marconi nella parte, diciamo, che riguarda il passato, fino ad arrivare ai tempi nostri, scoprendo così che il progetto di dominare la natura, dominare il clima e dominare tutte le forze che a noi sembrano fino ad ora sono sembrate naturali, è una cosa non del tutto impossibile, anzi diciamo che è l'ambizione delle grandi potenze che ci sono oggi a comandare. Allora, nelle prime slide io volevo far vedere prima il perché abbiamo parlato della farfalla. L'effetto farfalla credo che sia noto a molti, cioè lo scienziato Lorenz disse: un battito di ali di una farfalla a Tokyo può scatenare un uragano nel Texas. Sembra un paradosso, ma non lo è, perché effettivamente dalla scienza moderna si è scoperto che praticamente tutto è legato in un unico insieme, e bisogna avere una visione d'insieme per capire che quello che succede anche a migliaia di chilometri di distanza non è indifferente a dove siamo noi. E, praticamente l'universo viene considerato un sistema omogeneo, tutto intero, dove non possiamo prendere una parte e pensare che quello che succede lì non abbia risvolti da un'altra parte. È un po' come se, non so, avendo una cancrena a un dito del piede, dicessimo: beh, ma chi se ne frega, laggiù non succede niente. La cancrena andrebbe avanti e ucciderebbe tutto l'organismo. questo è molto importante, perché i fenomeni poi che rappresentano la natura e l'universo non sono fenomeni lineari. Cioè lineare vorrebbe dire che se io applico una forza ho una reazione proporzionale a quella forza. Invece nell'universo nulla è stato, si può esprimere con delle relazioni lineari, quindi io posso fare una piccolissima, dare una piccolissima forza e scatenare contemporaneamente una reazione molto più importante, molto più grande di quello che si poteva immaginare in partenza. Ecco perché il discorso della farfalla. Con poco si può scatenare un terremoto. Qui c'è una slide che vi dimostra se che ci sono dei terremoti, ci chiediamo se sono naturali o artificiali. Sappiamo per esempio che ci sono state delle nazioni che hanno fatto ricorso all'ONU chiedendo di non continuare con questi esperimenti sismici artificiali, ma non solo questo, si possono anche ottenere delle variazioni di clima, si possono desertificare delle zone fertili e viceversa far diventare fertili delle zone desertiche. I grandi potenti si sono ripromessi entro, mi pare, il 2025 di poter avere un totale controllo sul clima e su tutti i fenomeni che finora abbiamo considerato naturali del pianeta. Questa slide mostra un campo di antenne per la cattura di onde elettromagnetiche. Questo fa parte del progetto ARP, diciamo che è un progetto americano che si svolge in Alaska. Ci sono antenne per raccogliere le onde lunghe e quelli per raccogliere le onde corte. Le onde lunghe, per capirci, sono quelle che ci servono per la radio, la televisione, eccetera. E le onde corte sono quelle che hanno un'alta frequenza e sono estremamente, possono essere anche distruttive. Se pensiamo che, diciamo, un do di petto di un grande tenore può spaccare un lampadario, queste sono molto più potenti di questo e possono tranquillamente creare dei grossi problemi, come del resto si è visto, volontario o no che sia stato, nel caso del terremoto di Bologna. Forse non erano state fatte degli scavi allo scopo di far venire dei terremoti in Emilia, però questi scavi li hanno provocati. Un'altra fotografia di queste antenne: si svolgono quasi sempre questi studi, diciamo, verso il polo nord, perché lì c'è un intenso campo elettromagnetico. Ecco, le onde vengono sostanzialmente, come si può vedere qui, vengono praticamente condensate, poi sparate verso la ionosfera che le riflette quelle con una certa lunghezza d'onda, le altre passano attraverso la ionosfera e quelle, come vedete, possono essere sparate nei vari punti, diciamo, della Terra. Ecco, in questo possiamo vedere come invece delle onde non malefiche, chiamiamole così, possono raggiungere un satellite e mandare delle informazioni in qualunque altra parte del mondo. E questa è un'animazione molto interessante, americana. Si producono delle onde elettromagnetiche, si caricano delle batterie su dei mezzi militari e con questi mezzi militari si può sparare qualunque mezzo, diciamo, nemico, ma ci si può anche difendere, per esempio colpendo i missili che ci sono diretti, quindi insomma è il cosiddetto scudo spaziale che può difendere ma anche offendere. Modificare il clima, possiamo creare temporali, tifoni, tsunami, burrasche, eccetera. Personalmente sono convinta che il terremoto di Fukushima non sia stato naturale, ma è un'opinione tutta mia. Si può avere la desertificazione, diciamo, di zone fertili. E qui vediamo Nikola Tesla, che è uno degli scienziati più interessanti e intriganti di tutti i tempi, perché soprattutto non è stato riconosciuto per il valore che aveva. Era nato in Serbia, però credo che all'epoca fosse sotto l'impero austro-ungarico. Quasi tutte le invenzioni di cui noi oggi godiamo praticamente sono state fatte da lui. Alcune sono state copiate, qualcuno si è arrogato anche il diritto dei brevetti che aveva già, di cose che lui aveva già scoperto. E poi andò a lavorare da Westinghouse, quasi tutti i brevetti che sono stati fatti da Westinghouse erano idee di questo giovane scienziato, diciamo un genio, perché queste cose lui le sapeva magari sui studi, diciamo, normali. Ecco. E poi aveva proposto a Westinghouse di fare di essere finanziato in alcune delle sue ricerche, ma Westinghouse gli aveva risposto che se avesse fatto questo avrebbe finito di guadagnare lui e quindi l'aveva licenziato. Così lui andò in America e lì mise a disposizione un famoso laboratorio, Colorado Springs, di cui parla anche il romanzo, e in molti che ancora sono sopravvissuti, perché Tesla è morto mi pare negli anni 30 in maniera abbastanza misteriosa, e le persone, gli anziani che sono lì o hanno sentito raccontare dei loro nonni, che succedevano delle cose stranissime in questo laboratorio: uscivano dei fulmini, delle saette, camminavano per terra, uscivano scintille dai piedi delle persone. Qui ci sono alcuni esempi: un campo elettromagnetico sempre creato nella torre di Colorado Springs. E qui abbiamo invece il marchese Guglielmo Manconi, che aveva inventato anche lui il raggio della morte, che era anche questo semplicemente una concentrazione di onde elettromagnetiche ad alta frequenza. E nel caso di Manconi è successa una cosa strana: lui è stato spaventato da quello che aveva scoperto, e poiché diciamo il suo consigliere spirituale era l'allora Papa Pio XI, questo gli chiese di non mettere a disposizione del governo quest'arma. Forse è stata cambiata la storia con questo. E a questo proposito anche Fermi ebbe un'avventura del genere, perché Fermi aveva scoperto la fissione nucleare, cioè la possibilità di fare delle bombe atomiche, ma poi stranamente disse che si era sbagliato, non si era accorto di questo, che lui aveva scoperto la nascita di due nuove particelle, praticamente la nascita dell'ozonio e del sperma, una cosa del genere. E naturalmente nessuno in via Panisperma gli aveva creduto, perché era una persona che è andata a prendersi un premio Nobel per l'invenzione di due particelle molto opinabili. In realtà anche lui non ha voluto dare al governo la possibilità di utilizzare queste armi. Anche qui non so se l'Italia avrebbe avuto un destino migliore qualora le avesse avute a disposizione. Peggiore. Qui c'è rappresentata la rete di connessione di tutti gli impianti ARP che ci sono nel mondo, cioè praticamente tutto il mondo sotto controllo di questi sistemi. Ecco, a questo punto io mi sono posto una domanda, forse ve la porrete anche voi: gli scienziati servono davvero? Promuovono la vita o servono a distruggerla? Perché i fisici progettano degli armamenti che minacciano di cancellare la vita sul pianeta, i chimici contaminano l'ambiente a livello mondiale, i biologi mettono in circolazione dei virus sconosciuti di cui non possiamo prevedere le conseguenze, e altri scienziati tormentano uomini e animali con il nome del progresso. E non è questa la società che noi ci aspettiamo per il futuro, perché una società sostenibile è una società che risolve i problemi, i propri bisogni, però non deve ridurre le prospettive di quelli che sono le generazioni future. Bisognerebbe introdurre delle norme di etica, non per gli scienziati, ma purtroppo per chi sfrutta il lavoro che fanno gli scienziati. I valori principali per i quali si dovrebbe lavorare è perché la vita sia garantita a tutte le forme viventi, a tutti gli esseri viventi, umani e subumani. Altrimenti basta veramente un battito d'ali della farfalla. Questa è la presentazione dei miei tre libri. E due pensieri interessanti. Un pensiero è questo di Fred Terry, che si è ispirato al capo indiano Seattle: tutto ciò che accade alla terra accade ai figli e alle figlie della terra. L'uomo non tesse la trama della vita, in essa egli è soltanto un filo. Qualsiasi cosa fa alla trama, l'uomo la fa a se stesso. Poi c'è un pensiero del professor Emilio Del Giudice, che è un eccellente scienziato che ha insegnato fisica teorica al Politecnico di Milano. La verità non è qualcosa di preesistente come un tesoro sepolto dai pirati nella foresta. La verità non preesiste, ma bisogna ricomporla partendo dai frammenti in cui si è spezzettata nella realtà delle cose. Professore Emilio Del Giudice. Io mi fermerei così. A questo punto. Grazie. Splendida presentazione dal punto di vista proprio. Ritenevo che lo facessi per prima perché in qualche modo si gode di più se c'è tutto questo apparato scientifico dietro, ma io sono stata chiamata soprattutto non tanto per, ma è lo stesso di Cirto, non tanto per spiegare queste cose delle quali sono molto poco in verità, sono per sentito dire, ma soprattutto per vedere come questa grande cultura scientifica viene attraverso la scrittura, cioè attraverso la letteratura. Qui veniamo proprio al discorso di questa biblioteca, cioè come si può mediare questo discorso attraverso una lettura che sia spannend, cioè che sia un thriller, che sia affascinante e che ti dia in qualche modo delle coordinate per poter arrivare a subodorare, capire, pensare, comunque mettersi in contatto con questi tipi di pensiero. Non più tardi di domenica, una cosa molto interessante, guardando i programmi della televisione in verità, ho visto che c'è una trasmissione alle 12.55 di domenica scorsa, non so se è costante, lo vedrò la prossima settimana, che si chiama con lo stesso titolo del libro di Loredana, E se domani una farfalla, nella quale Giuliano Amato appunto ha tenuto una bellissima conversazione, vedo che alcuni di voi l'hanno sentita e vista, estremamente interessante, nel quale appunto venivano proprio proposti in termine umano, sottolineo la parola, tutte queste grandissime scoperte e novità, però veniva anche fatto il discorso del come amministrarle, qual è la morale di questo discorso, che cosa dovrebbe fare l'uomo per, non logico, finire di inventare o finire di sognare o finire di portare avanti il discorso scientifico, perché sarebbe veramente una cosa folle, ma di usare di questa grande patrimonio in maniera positiva. Ecco, a me questo mi sembrava molto importante da dire, ma soprattutto quello che mi ha intrigato in maniera particolare è questa capacità di Loredana di unire questa sua, e vi ripeto, questa sua grande conoscenza scientifica con una buonissima capacità esplicativa, con una, veramente con una forma interessantissima di scrittura, nella quale spanno proprio, vi ripeto, cioè questo tentativo di arrivare al perché delle cose ti porta. Io ho letto questo libro, quest'ultimo libro, purtroppo non ho ancora letto i due precedenti libri, che leggerò quanto prima, perché ci siamo conosciute da non tantissimo tempo e sulla sua opera non la conoscevo. Ecco, e questo proprio questa capacità che non è solo sua. Io ho conosciuto un altro scrittore che in qualche modo ha lo stesso tipo di propensione e capacità, che è Giuseppe Longo, che tu spero che abbia conosciuto. È uno scienziato triestino molto bravo, che appunto ha anche questa grande, lui è più per la matematica in quanto tale, ecco, che, ma comunque ha questo suo modo di portare avanti il discorso. Ecco. Naturalmente, che cosa si può chiedere? Abbiamo già chiesto e chiedo ancora, che cosa a questo punto, davanti a questi problemi, davanti a queste problematiche importantissime, che cosa si dovrebbe o si potrebbe fare? Come è chiamato il singolo cittadino, l'uomo comune? E come diceva Giuliano Amato, cosa devono fare non soltanto gli stati, ma le democrazie, e usava proprio questa parola, cosa devono fare le persone, che sono appunto il germe della democrazia, per potersi in qualche modo, non voglio usare la parola difendere, ma comunque in qualche modo anche difendere, sì, certo. da queste possibilità. Ecco, questa è una domanda che probabilmente ci si potrebbe fare, tipo ti vorrei fare. Beh, quello che abbiamo potuto constatare da da quando conosciamo la storia dei tempi, è che mai una scoperta è stata usata per fare del bene, ma è sempre stata usata per favorire la prepotenza di qualcuno. Le guerre ci sono sempre state, la storia non è affatto magistra vitae, come dicevano gli antichi, ma ha segnato soltanto a uccidere meglio e a fare delle prepotenze, delle violenze. C'è sempre una storia di sopraffazione. Io credo che il punto cruciale sia proprio questo, perché anche oggi tutte queste invenzioni, perché diciamo prendono una strada negativa, quando per esempio con la fusione fredda si potrebbe riscaldare con forse 40-50 euro, si potrebbe scaldare una casa per 500 anni, si potrebbe far andare un'automobile per 1 milione di chilometri, si potrebbe dare luce a una città con forse 100 euro ogni 500 anni. E invece di fare questo, diciamo, è diventato un segreto militare. E la fusione fredda esiste, l'ho vista, sono stata al laboratorio di Frascati, dove lavora appunto la mia coautrice dell'ultimo libro, Antonella De Ninno, e la fusione fredda si è potuta vedere, avviene a temperatura ambiente, mentre la fusione nucleare avviene a 10 milioni di gradi di calore, avviene a temperatura ambiente, dà un'energia pulita, addirittura disinquinante, ma non la usiamo per quello, la usiamo per fare oggi delle pallottole, che sono delle mini bombe atomiche che sono state usate in Medio Oriente, che praticamente vengono, non so a spiegare la tecnica, comunque c'è una fusione fredda che poi produce la fissione nucleare dell'uranio che le circonda, producono 4000 gradi di calore, per cui le persone che sono lì vicine vengono cremate prima ancora di essere morte. Non solo, ma liberano dell'idrogeno che è avido dell'ossigeno che si può trovare nei tessuti umani, e queste persone nel giro di pochissimi minuti si ritrovano con delle necrosi irreparabili, tant'è che a Baghdad, quando videro, diciamo, quando furono portati all'aeroporto le bare dei morti a Qiyam nel Libano, o anche quelli di Baghdad, le bare non erano più grandi di un metro, e queste persone non hanno nessuna speranza di vita, quelle che restano vive ci sono una... In più viene usato l'uranio sporco, perché con queste nanoparticelle si riesce anche a far morire di cancro in pochi mesi le persone che vivono in queste città, e quindi dico che la cattiveria umana sembra che abbia raggiunto un apice, che comunque è l'apice della scienza a cui siamo arrivati oggi. Io credo che la cosa fondamentale sarebbe quella di... l'etica dovrebbe essere non una morale... diciamo di costume, che è sempre soggetta allo spazio-tempo, nello spazio perché, non so, in Arabia la morale è diversa che da noi, nel tempo perché un secolo fa la morale era diversa di quella che abbiamo oggi, ma un'etica che sia quella di riconoscere in tutto quello che ci circonda questa famosa rete di connessioni che la fisica moderna oggi ha scoperto. La materia, sappiamo già che non esiste solo una forma di energia secondo l'equazione di Einstein, ma questa energia diciamo che è una rete di, non è neppure un'energia quantificabile, è una rete di connessioni di tutte le cose, tutti gli oggetti della natura. Noi siamo qui, però siamo fatti di questi atomi, anche noi siamo fatti di queste piccolissime connessioni elettromagnetiche. Il vuoto non esiste perché è pieno di onde elettromagnetiche, di questo vuoto che adesso viene chiamato vuoto quantico. È una rete di dove nulla è staccato dal resto. Allora, o amiamo questa terra, o amiamo la casa in cui viviamo, e allora la teniamo bene e stiamo attenti a non fare del male, ma noi la stiamo veramente distruggendo questa terra, perché stiamo inquinando l'aria, inquinando l'acqua, deforestando delle zone grandissime, impedendo di avere un riciclo anche di quella che sono la biologia. Ci sono specie intere che sono state praticamente distrutte. Quando a volte succede che spiaggiano, ci sono delle balene che piaggiano e muoiono, di suicidio collettivo delle balene perché sono impazzite, o forse perché semplicemente queste onde elettromagnetiche le hanno disorientate nel loro sistema naturale che avevano di gestione, diciamo, delle posizioni varie della natura, degli oceani, eccetera. È successo che siano caduti un periodo degli uccelli morti per aria, ma per cosa sono morti? Così improvvisamente si sono suicidati, si sono buttati giù, ma vogliamo scherzare? Questi sono stati colpiti da onde elettromagnetiche che stavano facendo esperimenti di varia natura. Allora, tutte queste cose, noi stiamo distruggendo la terra. Io credo che sia ora di riunirsi, di aggregarsi, di parlare, di ritrovarsi, di creare un insieme di persone che si diano l'impegno proprio di dire: cerchiamo veramente di renderci conto che facciamo parte di questo insieme. Bisogna avere una visione olistica dell'universo, non parziale, perché anche i grandi scienziati come Newton, Cartesio, eccetera, si erano sbagliati, perché vedevano i corpi isolati uno dall'altro, come se fosse un sasso, e un sasso casca giù, va bene, questo macroscopicamente è vero, queste leggi sono ancora rispettate, ma in realtà il sasso non è un sasso. Se andiamo a guardarlo con un microscopio elettronico, scopriamo che c'è un'infinità di materia, di energia che si muove all'interno di questo sasso, c'è una continua vibrazione, e tutto questo è tutto connesso. Tutto quello che noi facciamo a un filo della rete, come diceva Sartre, lo facciamo a tutta la rete. Bellissimo questa cosa, proprio splendida. E qui ancora, dal punto di vista della lettura del libro, proprio dalla lettura, e ancora faccio questa considerazione e poi lascio domande a tutti quelli che vogliono farle. Proprio dal punto di vista della lettura, io ho sempre detto che un libro interessa e piace quando risponde a determinate esigenze che uno ha, come un film, come tutte queste cose piacciono se ti interessano. Ma la cosa più interessante di questo libro è che ogni capitolo, ogni pezzettino ti rimanda ad altre cose. Per esempio, tu stavi dicendo questa cosa interessantissima, ma c'è anche la storia delle scorie, per esempio, certo, alle quali nessuno di noi pensa, che in questa atmosfera intorno a noi girano un'infinità di scorie, che sono le scorie delle cose che abbiamo noi mandato. Sì, ma anche tutti i pezzetti rovinati dei satelliti, ecco. C'è di tutto nella fascia di valle, appunto. Ecco. E tutti questi piccoli comunque questi anche piccoli tutte queste messaggi, scorie radioattive che vengono, di cui solo il 7% viene praticamente distrutto. In realtà vengono buttate di qua e di là, non so, i campi Flegrei sono diventati un'immensa buca dove buttano tutte le scorie radioattive, buttano rifiuti tossici. Poi noi corriamo a comprare i pomodori San Marzano, ma quelli sono cresciuti col mercurio, cioè non ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo, perché non si vede, poi perché non vogliamo saperlo, soprattutto. Non ci fa piacere saperlo, vogliamo continuare a credere che la natura provvederà. È vero, la natura si è sempre adattata, ma ai suoi tempi. Noi oggi stiamo facendo troppo in fretta queste azioni perché la natura possa tenerci dietro. La natura prima o poi creerà un essere che è capace di resistere alla radioattività, a tutte queste cose, ma al momento non ce la fa a crearlo nei tempi in cui noi spariamo. Sono convinta che se chiedessi qui, credo che tutti siamo convinti che di bombe atomiche ne siano state sparate solo due, quelle di Hiroshima e Nagasaki. In realtà ne sono state sparate più di 1000. Solo l'America ne ha sparate 200 in un mese. Ogni bomba atomica ha creato sconnessioni, diciamo, nelle zolle tettoniche, ha creato radioattività, ha creato residui di nanoparticelle che sono tossiche. Ecco, noi viviamo in un mondo così, dobbiamo fare qualcosa, perché diversamente veramente la specie, molte specie minacciano l'estinzione, e anche la specie umana non avrà una fine molto gradevole con questo discorso. Naturalmente nei libri non è che nei libri che ho scritto non è che mi sono messa a scrivere delle cose di scienza incomprensibili. No, anzi. È la storia, diciamo, di persone che trovandosi in una situazione di questo genere praticamente hanno una reazione come quella che avrei io trovandomi nei loro panni se mi trovassi a star lavorando a un progetto che può distruggere l'umanità. E quindi, diciamo, che la scoperta viene raccontata in maniera abbastanza facile, semplice, comprensibile a tutti. Non c'è difficoltà, non è che ci sono formule scientifiche, però sono cose che dovremmo esigere di poter essere informati, mentre invece la stampa ufficiale non ci informa, gli scienziati non ci informano, i governi non ci informano. io mi chiedo che razza di democrazia è in cui il popolo non conta assolutamente niente, cioè noi non possiamo neanche sapere quello che sta avvenendo e quindi non lo so. Ecco, ma da, sempre dal punto di vista letterario, oltre a quello che tu hai detto, che è veramente la verità, cioè in maniera piana e semplice queste grandissime e terrificanti verità, ma c'è anche un altro livello che a me è interessato in maniera particolare, che è il livello del tempo. Tu hai parlato del tempo e qui a proposito del tempo c'è proprio il ritorno a questi grandissimi pensatori del passato vicino e del passato remotissimo, che hanno, difatti sono tre elementi che vengono scoperti, che vengono usati, che vengono trattati in questo protagonisti di questo libro, un antico manoscritto con alchemico in definitiva, poi una delle incisioni su delle antiche pietre, ecco, e queste cose insieme ti riportano a questo, di nuovo, a questa forma di, in fondo, di orgoglio di essere in fondo un tutt'uno nel tempo e nello spazio, negli antichi e nei moderni, certo. Dove c'è tutta questa, però dalla quale dobbiamo non solo essere orgogliosi, ma cercare di trarre, certo, un insegnamento veramente magistra vita, contrario, ecco. Che veramente qualcosa sia maestra, ecco, della vita, ecco, non, in qualche modo, ecco. Non così come è stato finora, ecco. A questo momento penso che sarebbe il caso di chiedere ai nostri carissimi ospiti, ti piace la parola? Molto. Ecco. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, soprattutto alla dottoressa Repucci, perché io so poco rispondere alla sua materia, io vi posso rispondere sul libro, non di più. Ecco. Io avrei una domanda che è molto semplice, insomma. Perché non esiste una cultura della vita, ad esempio, no? Visto che investiamo talmente tanti soldi nella controcultura, o quantomeno mettiamo a disposizione delle democrazie, che non so fino a che punto possiamo considerare le democrazie, perché se arriviamo a tali atti senza prendere in considerazione proprio l'evento vita, io mi sentirei piuttosto sconfitto, ecco, perché non c'è questa attività per mantenere una cultura della vita. Ma direi che proprio è questo il punto fondamentale, perché dove dovremmo trovare la cultura, oggi ci sono tanti mezzi, non dovrebbe essere difficile mettere a disposizione di tutti questa cultura, è proprio da lì che parte la non cultura, cioè noi siamo vittime di informazioni che non sono corrette, quantomeno non sono sincere. Perché è chiaro che bisogna anche nascondere molte cose per evitare il panico, ma queste sono anche storie, siamo tutti maturi, non possiamo trovarci domani di fronte, diciamo, a un fenomeno pazzesco e dire ma è possibile che nessuno se ne è accorto, insomma, ecco. Quindi quello che dovremmo fare, secondo me, sarebbe quello di far affermare il principio che abbiamo il diritto di sapere, ma non una cultura scolastica appiccicata lì con una serie di cose che non ci serviranno poi a nulla nella vita e neanche, diciamo, la maturazione di noi stessi, una maturazione maggiore. Io penso che proprio la cultura dovrebbe essere, non so, abbiamo 100 canali della TV, ma non ce ne potrebbe essere uno che tutto il giorno trasmette, invece delle solite storielle, si trasmettesse effettivamente tutte le novità e innovazioni diciamo che sono avvenute nella scienza. Per esempio, io nei miei tre libri ho affrontato tre problemi. Il primo era quello della fusione fredda, perché è veramente indegno che, avendo a disposizione un'energia che potrebbe far star bene tutto il mondo, oggi che siamo 6 miliardi e quindi c'è bisogno di un'energia che costi poco e dia molto, e ci sarebbe, e non si usa. E poi ho fatto un libro sulla clonazione umana, perché si parla di cloni, la pecora Dolly, eccetera, eccetera. E però, diciamo, un giorno il professor Antinori per televisione si è detto che era stata raggiunta la possibilità di creare dei cloni umani, e effettivamente ci sono dei bambini che sono oggi degli adulti che sono stati fatti, diciamo, clonando un essere umano. Vecchi progetti che non conosciamo di natura, diciamo, di hitleriana, ma che c'erano anche prima, non soltanto allora. Anche questo mi sgomenta, perché diciamo tocca troppi problemi e tocca anche problemi etici. Quindi il terzo libro, quindi io ho parlato della fusione fredda, ho parlato della clonazione umana, e quest'ultimo è praticamente sulle onde elettromagnetiche, perché è il proiettile più invisibile che c'è, non lo vediamo, non lo sappiamo. Se arriva possiamo dire benissimo, un'onda elettromagnetica, saranno le macchie solari, sarà Saturno che si è spostato, sarà una cometa che gira, possono raccontarci qualunque cosa, però intanto queste onde elettromagnetiche possono colpirci. E quante volte potremo capire e come faremo a capire se questo fenomeno è naturale o è provocato? Non c'è strumento. La domanda più semplice è perché non sappiamo rinunciare a un portatile telefonico che trasmette onde elettromagnetiche. Chi sarebbe disposto oggi a rinunciare? Perché lei parla in grande ovviamente delle onde elettromagnetiche. Sì, certo, sappiamo che anche il telefonino ci fa male. Ecco, se partiamo da un telefonino, magari qualcuno neanche due o tre, insomma, no? Oggi possiamo andare in controtendenza per dire facciamoci meno del male? Punto interrogativo. Chi vuole rinunciare oggi a questa, chiamiamola, comodità, tra virgolette, che lo è poi in fondo? Sì, però diciamo anche che ci hanno fatto credere che il buco dell'ozono è dovuto alle bombolette o ai frigoriferi, quando sappiamo che sono queste bombe sparate, diciamo, contro l'atmosfera, che hanno fatto dei buchi grandi, molto di più di quanto ci dicono, e poi ci raccontano non usate le bombolette. Ora io rinuncerei volentieri al telefonino, ma non sono le onde del telefonino, perché le onde radio, le onde sonore e anche le onde della televisione, io farei anche volentieri a meno della televisione, perché di importante e di interessante c'è ben poco. Ma a me sono concesso, sono onde, diciamo, onde lunghe, di quelle che insomma. Le onde invece, le onde quelle forti, quelle, le onde corte sono quelle molto frequenti. La frequenza, voglio dire, insomma, come dico, se il do di petto di un tenore può spaccare un lampadario, figuriamoci che cosa può fare un'onda che viaggia, diciamo, a velocità 10.000 volte maggiore. Allora, questo è un discorso che ci si deve porre, facciamo o non facciamo questi esperimenti? Abbiamo fatto questa scoperta, benissimo, o possiamo farla, usarla per il bene di tutti, oppure non usiamola, perché qualcuno ci arricchirà con questo, ma poi sappiamo benissimo che chi avvelena l'acqua prima o poi dovrà berla anche lui. Però di fronte al guadagno, di fronte ai soldi, di fronte al potere, di fronte al successo, di fronte all'importanza, si riesce anche a rinunciare all'idea di si dice vabbè la berrò, ma intanto poi la natura farà qualcosa, succede sempre qualcosa. Sì, come dico, succede, ma non in tempi utili, secondo me. Qualcun altro? Sì, io vorrei tornare al titolo del suo libro. Sì. E se domani una farfalla. Mm. E l'ha collegato all'effetto che potrebbe avere il suo battito qui in sì. un'altra parte del mondo, sì. Collegandolo alla matrice, insomma, sì. nella quale viviamo certo. immersi. No? Potrebbe anche viceversa un battito positivo, ecco, fare la stessa cosa, ma sì. noi quello non lo facciamo mai. Sì. Io automaticamente mi sono riallacciato. Mi sono riallacciato al libro di un ingegnere, La fisica dell'anima, sì. non so se lo conosce, dove dice di una scimmia nell'isola di Hokkaido che ha imparato a sbucciare la banana, l'ha trasmesso piano piano a tutte le famiglie sì. di scimmie, però solo al raggiungimento della centesima scimmia, che questo fisico individuava come soglia critica, affinché il messaggio passasse via etere alle scimmie dell'Africa, per esempio, e che anche loro imparassero a sbucciarsi le banane. Quindi ha stabilito una soglia critica e non una farfalla, è accademico. Beh, ma questo non chiaramente è, non è paradosso. Aggressione al sutile. Però mi allaccio alla domanda che ha fatto il Signore, che in effetti è una cosa di una cultura collettiva. Contrastare lo stato di cose della quale ci stiamo lamentando. Non è il singolo individuo. Ma perché è una non cultura? Prego. Perché è una non cultura. E questo è fatto, noi ci accontentiamo di una non cultura, noi ci pigliamo una laurea per trovare un posto di lavoro, quale che sia, non ce ne importa niente. Non, in fondo amare veramente la cultura significa, io credo, capire l'intero, non capire una parte, perché l'intero è più della somma delle parti, come dicono i filosofi. Ma è anche vero che se da questo prendiamo un corpo umano, se noi pigliamo un polmone e lo tiriamo fuori, il polmone non fa il suo lavoro perché è avulso dall'insieme, ma nell'insieme fa un lavoro. Allora, se tutti assieme lavoriamo per un benessere, ci possiamo riuscire, ma se c'è metà, ma non sarà metà del mondo, forse il 10% del mondo che lavora per se stesso, la soglia critica diventa sempre più lontana. Ma la soglia critica c'è, ma potremmo, se tutti contemporaneamente riuscissimo ad avere questo tipo di impulso, di voglia, di cultura, e insomma è come quel proverbio giapponese, se ognuno pulisce il marciapiede davanti alla sua porta di casa, tutta la casa è pulita. Certo, se poi ce n'è uno che butta le porcherie di qua e di là, beh, è chiaro che cioè, non, è un paradosso questo della farfalla, è vero, però non così paradosso come può sembrare, perché effettivamente quando si parla di... Però quello che volevo sottolineare è come avrei gradito fossero 100 farfalle, siamo tutti 100 milioni di noi, forse siamo, che contribuiamo. Potremmo essere delle farfalle che fanno battito d'ali positivo e tutti potremmo esserlo e coinvolgere degli altri, come diciamo dilaga subito un'idea. Quando non ci fa comodo, perché oggi se guardiamo nel consumismo di oggi, di cose veramente necessarie, utili tante, inutili le più e necessarie pochissime. Ora, non lo so, salta fuori che bisogna farsi un braccialetto con un filo di ferro intorno a un braccio. 10 giorni dopo tutti i ragazzini hanno il braccialetto fatto con un filo di ferro. È questione di marketing, sappiamo che è questo il motivo. Ma come tutta l'umanità immediatamente percepisce da Los Angeles a New York, da New York a Berlino, da Berlino a Roma, tutti quanti vanno a caccia di quell'oggetto, solo perché semplicemente va di moda, lo porta anche quello lì, eccetera, eccetera. Non so, ricordiamoci i jeans con gli strappi. Basta che una persona vada in televisione, che sia magari, che so, la più bella attrice che c'è, con i jeans con i buchi, e tutte le ragazze portano i jeans con i buchi, fanno ridere i polli, però li portano. Allora, voglio dire, è possibile comunicare qualche cosa mondialmente e in maniera rapida, in maniera... Quelli che hanno in mano questi strumenti però non li usano per fare questo, li usano solo per mettere in giro qualche cosa che fa far soldi, che fa far soldi a qualcuno, ma non che fa bene agli altri. Ecco, ci vorrebbe che a livelli di chi ha questi poteri ci fosse qualcuno che dicesse: da adesso in poi metto in circolo un'idea che possa essere valida per tutta l'umanità. Poco fa qualcuno ha parlato di quante cose si possono fare e di quante richieste ci sono. Benissimo, pensiamo a quante organizzazioni benefiche ci sono, un'infinità. Quanti soldi vengono dati a queste? Un'infinità. Tutto il mondo dovrebbe sguazzare nella ricchezza se fosse vero che quei soldi arrivano alle persone che devono arrivare. E invece non gli arrivano proprio. Probabilmente si fermano molto prima. Alcuni arrivano. Alcuni. Ci sono delle associazioni rispettabili che raccolgono e consegnano tutti i soldi. Io ricordo, non generalizzi in questa maniera. Io ricordo un giorno di aver incontrato in un autogrill un pulmino di una roulotte, un pulmino di ragazzi che erano seduti su un'aiola e piangevano, ragazzoni che avevano fatto un viaggio lunghissimo. Erano arrivati, non mi ricordo dove, ma forse con questo pullman erano arrivati oltre la Russia, forse erano andati nel Kosovo, una cosa del genere, e si erano caricati di roba da dare. Quando sono arrivati lì non hanno potuto distribuire assolutamente niente. C'era una persona addetta che ha detto: grazie, lasciate qui tutto, mettete le vostre firme, grazie, arrivederci. E questi no, ma noi vogliamo vedere a chi vanno, vogliamo rimanere qui, stiamo a guardare, lo fate voi, noi guardiamo. Non gli è stato possibile. e piangevano dalla disperazione perché avevano fatto un viaggio difficilissimo, si erano privati di soldi, di roba, avevano mangiato come avevano potuto, avevano dormito dentro sto pulmino accatastati uno sull'altro pur di arrivare a fare questa cosa e non sono riusciti a farlo. Naturalmente questo non toglie che ci sono delle associazioni che lo fanno, vediamo non so, persone come forse Gino Strada, io credo che le cose le faccia, insomma ho l'impressione che ci sia anche chi lo fa, però diciamo l'umanità non è certo migliorata per quello che abbiamo fatto. E questo è anche un concetto che dovremmo molto studiare, perché si parla, i politologi dicono che potremmo superare le crisi con la solidarietà, ma la solidarietà è una parola un po' ambigua, perché solidarietà vuol dire sostanzialmente elemosina, e l'elemosina secondo me non ha mai risolto i problemi, perché lo diceva anche Gesù, no? Se uno è affamato non regalategli un pesce ma insegnategli a pescare. Allora, con tutte queste cose che si sono fatte, non era più facile fare una dozzina, scavare una dozzina di pozzi nel Sahara o in quei paesi dove c'è la fame, in modo da poter dare la possibilità a queste persone di fare un orticello, di cominciare a vivere partendo da zero come siamo partiti noi ai tempi di Adamo e Eva? Questo è il discorso. Non vorrei occupare troppo spazio, meno che non ci sia qualcun altro, ma prima ha parlato delle vibrazioni, sì, di cui è composta la parte ultima della materia, di, sì, Max Planck. Si è ricevuto più che altro anche il premio perché ha detto questa infima parte che è la vibrazione è chi la muove, no? E non poteva che addebitarlo lo spirito, in quanto un eterno motore l'uomo non l'ha inventato, quindi questo eterno movimento di vibrazione della particella chi glielo fornisce? Adesso qui non voglio entrare nel merito delle credenze delle persone, no? Ha detto a Berlino nella conferenza del 1935. Sì. Comunque. Quindi sono parole sue. Per cui ha dato una forza allo spirito di muovere la materia. Certo, bisogna vedere cosa intendiamo per spirito e materia. Intanto cominciamo a dire che la materia, parliamo di spirito e di materia, va bene, parliamo di energia. Perché tutto sommato la materia termine, non c'è. Il no? Termine civilizzato, diciamo, di tutto. Ma parliamo di energia perché la materia è dimostrato che non c'è. Praticamente è l'esempio più banale per dimostrare questo, non so, prendiamo una tromba d'aria. Lasciamo perdere che si porti dietro detriti, tronchi d'albero, che so io. Una tromba d'aria è dell'aria che improvvisamente si mette a vorticare. Vorticando quest'aria che è invisibile, che non ci dà fastidio, che non ci disturba, vorticando assume una forma, ha un colore bigio scuro e è altamente distruttiva, è la velocità che la rende praticamente distruttiva. Ecco, quello che mi piace, voglio risponderle con una frase di un filosofo orientale, queste vibrazioni sono un movimento energetico, un'eterna danza in cui non ci sono i danzatori. C'è la danza, ma non ci sono i danzatori. Poetica questa idea. È poetica, ma è anche vera. Planck ha detto che è lo spirito. Come? Ha detto a tutto Max Planck, sì, non si è vergognato di fronte alla platea mondiale di dire che è lo spirito. Sì, sì. Lui parlava dell'assoluto, veramente Planck ha parlato dell'assoluto. E l'assoluto è quella strana cosa che gli scienziati, quando non sanno come far quadrare una formula, non so se avrà notato, se ha avuto modo di leggere delle formule, c'è sempre una formula più C, una costante, K, C, o che so io. Questo è perché i conti non gli tornano. Allora, per farli tornare, si riferiscono al fatto che c'è qualcosa che manca, che non l'abbiamo ancora scoperto, che lo scopriremo forse prima o forse dopo. E tanto lo piazzano lì e la formula quadra. Ma ok, questo la dice lunga sul fatto che non riusciamo a dire sull'ultimo evento. Ah, sicuramente no, sicuramente non ancora. Però passare da Newton a Max Planck c'è una bella differenza. Cioè uno si è fermato al fenomeno fisico, nel 2000 invece abbiamo sposato la fisicità dei fenomeni con la spiritualità, certo, del fenomeno. Certo. Allora torno a bomba. Mille persone che meditano sganciano un effetto energetico. Certamente. Che si riverbera, non dico solo nel Texas. Lei cosa intende per meditare? C'è questo grande tempio che ha fatto Bhagavad in India, per esempio di pietra, per 8.000 persone che meditino contemporaneamente. E sono cosa, più di 100. Cosa fanno quando meditano, secondo lei? Guarda che io medito. Comunque chiedo cosa lei cosa fa quando medita. Pensa, cioè, pensa a qualcosa. Non so se si è disposta la platea ad ascoltare i temi, o se abbiamo confinato in temi. Vabbè. Lasciamo perdere. Assolutamente, il nocciolo della meditazione è lo svuotamento di tutti i pensieri, esatto, di tutte le limitazioni che ci angosciano. Questo comunque serve alla persona che medita, ma non so quanto serve agli altri. La forma energetica colpisce senza colore del viso e senza colore della pelle. L'effetto. Comunque, sempre tornando ai nostri scienziati più recenti, Einstein, per esempio, pur avendo, essendo stato, diciamo, meraviglioso per aver scoperto questa equivalenza tra materia ed energia, aveva dato un limite, tutto sommato, a questa energia, che era la velocità della luce. Lui dice che non c'è nessuna velocità che può superare la velocità della luce. Invece Bohr, che ha litigato con Einstein, hanno litigato, perché Bohr sosteneva invece che, essendo un intero organismo, c'era una contemporaneità dell'evento, perché noi diciamo, va bene, la luce ha una velocità, raggiunge da un punto a un altro tanto tempo, tanti anni luce, secondi luce, quello che vogliamo, no? E in realtà, se l'organismo è unico, voglio dire che se mi colpisce un sasso, mi colpisce in testa, immediatamente tutto l'organismo sa che questo sasso gli è arrivato in testa. Quindi non c'è più la questione della velocità o non la velocità della luce, c'è soltanto una questione di contemporaneità. Allora, quello che secondo queste teorie moderne, adesso visto che abbiamo voluto prendere un po' questa quarto strada, il principio della quanta, no? Ecco, esatto, esatto, quanta. Ma non è neanche più da vedere quanti, perché è contemporaneo, cioè questa rete è tutta una rete, e ogni nodo della rete è a sua volta una rete di interazioni. Perché adesso non so, in fisica si parla del nucleo con protoni, neutroni, eccetera, che stanno lì dentro, insomma, si cocciano, si sgomitano l'uno con l'altro. Poi in realtà probabilmente ci sono degli scambi di energia per cui il protone diventa neutrone, il neutrone diventa protone, questo così all'infinito fino all'esaurimento dell'energia. Ma voglio dire, questi sono discorsi, diciamo, un po' troppo filosofici per un libro che tutto sommato è un romanzo di fantasia. Altri? Qualche altra domanda? Perché se no... Potresti fare vedere la seconda parte. Non lo so. Non è per fare una domanda, ma per dire una cosa, che secondo me questo libro qui, la lettura di questo libro si impone, perché? Perché provoca una grandinata di domande. Arrivano domande di tutti i generi, una dopo l'altra. E allora... Non posso neanche cominciare a farle queste domande. No, ma infatti riceviamo molti email, sia io che l'Antonella, con domande, diciamo, appunto, molte di queste domande ci arrivano, insomma. Naturalmente, diciamo, quello che è importante è sapere che ci sono dei problemi che non ci vengono raccontati, che ci sono delle persone che ritengono di avere il diritto di gestire l'umanità secondo i loro interessi. Ecco, questo dovrebbe essere una cosa che ci fa in qualche modo reagire. Reagire nel senso di dire, va bene, ma se ci vuoi chiedere se ci va bene sta cosa, o la vuoi fare senza neanche chiederci il permesso, vabbè, non contiamo niente, contiamo una persona, però sempre capaci di emettere un battito d'ali come la farfalla. Sì, adesso si potrebbe, per esempio, per carità, toccaferro, non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma se noi guardiamo un po' nella storia dell'umanità, forse ci rendiamo conto di una cosa, che si potrebbe parlare nelle varie epoche, anche molto lontane, eccetera, di qualcosa che, scusate l'espressione, si potrebbe chiamare la filosofia della catastrofe. Perché? Perché tutta la storia dell'umanità è piena di questi racconti qui. Abbiamo i miti. Sì, no? Certo. Guardate che questi miti sono terrificanti se noi li prendiamo uno per uno, perché il diluvio universale, prendiamo la Bibbia, il diluvio universale, non c'è mica soltanto il diluvio universale, nella Bibbia come catastrofe c'è anche la Torre di Babele, per esempio, no? L'Apocalisse. È una quantità di altre cose, no? Allora, questo andare verso la distruzione dell'umanità non dobbiamo prenderla come un avvertimento, certamente è un avvertimento che ci viene dato. Ed è per questo che allora io vorrei porre questa domanda. La censura è compatibile con la democrazia o non lo è? Perché se noi vogliamo parlare di democrazia, dobbiamo anche mettere il popolo in condizione di essere informato. Certo. Però io mi sono posta anche questa domanda. Facevano bene quelli che mettevano gli scienziati sul rogo? Forse sì. Almeno si ritardava di un po' l'invenzione, diciamo, di cose, diciamo che punivamo il poveraccio, che lui, lo scienziato, è lì che studia, non gli importa niente di cosa se ne fa. Però ci sono stati anche scienziati come Oppenheimer, lo stesso Einstein, insomma, che tanto si sono resi conto di cosa avevano fatto, si sono forse pentiti di averlo fatto, di aver assistito alla prima esplosione della bomba atomica. Ecco, purtroppo gli scienziati sono finanziati da chi poi farà uso di quello che loro hanno scoperto. E questo ci porta al fatto che se qualcuno ha finanziato gli studi di Einstein, o ha finanziato gli studi di non so chi sarà stato quello che si è messo a inventare queste nuove onde elettromagnetiche, inventare, diciamo, convogliarle, perché non hanno inventato nulla, però le hanno prese, le hanno utilizzate in maniera diversa da quello che fa la natura, perché noi siamo sempre bombardati da onde elettromagnetiche, ma la natura ha trovato un suo equilibrio che non durerà tantissimo, perché se l'universo ha 14 miliardi di anni e, diciamo, le specie umane sono comparse negli ultimi 70 milioni di anni, l'Homo sapiens è poche migliaia di anni, niente ci fa pensare che questa parentesi aperta si chiuderà relativamente in fretta e tutto l'universo continuerà a agire, a esserci senza di noi, con noi o senza di noi, va tutto avanti lo stesso. Però, voglio dire, è un momento di equilibrio, di condizioni, diciamo, di pressione, di temperatura, di distanza dal Sole, di distanza dagli altri pianeti, dalla Luna che fa da controbilanciere, eccetera, eccetera, una condizione ideale per la quale l'uomo si è potuto presentare così come oggi. Se noi andiamo a creare dei disturbi troppo violenti, forse queste condizioni non ci sono più, ma basta soltanto che la temperatura cali di 2 o 3 gradi, praticamente si scioglieranno tutti i ghiacciai, ma se si sciolgono tutti i ghiacciai si sommergono un'infinità di terre, proprio cambia la geografia, ma soltanto per una temperatura che aumenta di pochi gradi. Ecco l'effetto farfalla, 2 o 3 gradi che possono creare una catastrofe mondiale, proprio perché questi fenomeni non seguono una legge lineare, per cui se io do una botta con una forza di 5, quello lì si deforma per una forza di 20, se do una botta in forma 10, quello si deforma a 40, non è che posso prevedere. In questo caso, io do una botta da 5 e agisce per 10, ne do una successiva da 6 e quello mi va a fare 1 milione di danni. E questo è il problema che gli scienziati stanno studiando adesso, c'è poco da fare, la fisica moderna ci dà tante notizie, ma ci dà anche tante preoccupazioni. Anzi, il signore aveva chiesto la parola. Dica. Una precisazione, forse ho capito male io. Cioè, lei ha detto che in Italia ci sarebbe un laboratorio dove è possibile, tramite la fusione fredda, produrre energia, e in questo laboratorio lavora questa signora. Sì, che Frascati, sì, diciamo che esiste il laboratorio dell'Enea di Frascati, in cui lavora la mia coautrice Antonella De Ninno tuttora. Oggi si sta occupando di onde elettromagnetiche e dei problemi, diciamo, connessi con l'acqua, sostanzialmente. Il corpo umano è fatto per il 98% di acqua, quindi è chiaro che si vada a lavorare lì. negli anni passati, e su internet si può anche ritrovare l'intervista che ha fatto e anche la relazione che è stata fatta, sotto la presidenza Rubbia e con Rubbia ha lavorato sulla fusione fredda. La fusione fredda è stata prodotta, è andata in giro anche a presentarla in varie parti del mondo, in Giappone, in America, eccetera. Improvvisamente il professor Rubbia l'ha richiamata in Italia e lei aveva preparato questa relazione, ha detto cosa ne faccio, lui ha detto puoi buttarla anche nel fuoco, fanne quello che ti pare, veramente ha detto una cosa molto più volgare, ma stiamo a ripetere che non occorre. E praticamente della fusione fredda non si è parlato più. Mi sembra sinceramente inverosibile. No, ma l'hanno studiata in tutto il mondo. Questa fusione fredda l'ha studiata in particolare il Giappone, la Toyota ha finanziato... L'abbiamo studiata, siamo d'accordo. Anche che non siano riusciti a riprodurla, siamo d'accordo, no, perché non esiste diciamo nulla che quello di scientifico, di concreto. No, ma guardi che non è che sia una cosa... Diciamo che questa fusione fredda chissà cosa si crede che sia, no? Allora, con la fusione fredda con 500 euro produciamo l'energia per i prossimi 1000 anni, sì, per scaldare una città. Una casa, sì, per esempio. Sì, sì. Cioè, e dov'è, voglio dire? Siamo tutti... Ma le sette sorelle le dice ma niente, non so, sorelle, tutti i signori del petrolio, i signori delle armi. Sì, ma capisce bene, ma si sono fatto delle armi. Cioè lei fa delle affermazioni che o sono scientificamente documentate, se no. Ma per Bacco. Lei si legga il libro Il segreto delle tre pallottole che è stato scritto. Lei si legga il libro Il segreto delle tre pallottole. Possiamo dire allora. Com'è? Esiste tutto con questa, col modo di... Ma le pallottole che sono state utilizzate nel Medio Oriente sono fatte con la fusione fredda. Se io non ho voluto annoiare, comunque la fusione fredda avviene... Ma lasciamo perdere le pallottole, qua stiamo parlando di produzione di energia con un metodo che non è il metodo... 4000 cioè, gradi in una pallottolina nucleare, così mi sembra poco. Nucleare che potrebbe portare a una rivoluzione nella produzione di energia del mondo. Ma certo. Che è in mano a tutti gli scienziati perché se l'hanno prodotta. Non è più in mano agli scienziati, è in mano... E nessuno riesce a far uscire questa notizia o riprodurre. Ma come nessuno fa uscire? Nel 99 è stata pubblicata. Ma cosa è stato pubblicato? Ma si hanno dimostrato ma che, non è ingenuo, che non è possibile. La macchina elettrica, ma non è possibile. Ma la macchina elettrica è tutta un'altra cosa. No, scusi, mi scusi, ma guardi, semplicemente. Beh, se lei non ci crede, padronissimo. Ma non posso credere delle cose che non esistono, capisce? Lei deve dimostrare che esistono. Sono io che devo credere. Guarda, lei semplicemente si legga il libro Il segreto delle tre pallottole, scritto dal professor del giudice che è professore di fisica teorica, ha partecipato alla preparazione a questo esperimento della fusione fredda fatta a Frascati. Lui e un giornalista sono andati a vedere il risultato di queste pallottole che sono state costruite in America, ma le sta facendo la Russia, le sta facendo l'Inghilterra, le sta facendo forse anche la Francia. Sono pallottole in cui la fissione nucleare, anziché come avviene la fissione nucleare alimenta il processo per fare la fusione nucleare, se ne intende un po', se no magari mostro anche qualche slide che lo può dimostrare. Ecco, qui succede il contrario. All'interno della pallottola avviene una fusione fredda, la fusione fredda avviene per compressione, due atomi, un po' come due gocce d'acqua, se le mette vicino si confondono e diventa una. Ecco, in questo caso c'è il difetto di massa che per la legge di Einstein moltiplicato per 300.000 al secondo al quadrato vuol dire 90 milioni, quindi per quanto sia 0,007, che è il difetto di massa del protone, 0,007 moltiplicato per 90 milioni mi dica lei che numero viene fuori. Allora, con questa loro praticamente producono, diciamo, colpiscono i neutroni di questa pallottola che di fuori c'è l'uranio e questi fanno una mini esplosione nucleare che è partita dalla fusione fredda. L'hanno usata subito così, adesso è diventata segreto militare, è coperta da segreto militare. Però se lei si informa, ma guardi che non occorre neanche, basta che vada su internet, troverà miliardi di... l'hanno fatto in Russia, l'hanno fatto i giapponesi, l'hanno fatta tutti. A noi è stato proibito di andare avanti. Ma comunque, siccome sono andata a Frascati e l'ho vista con i miei occhi, perché fusione nucleare vuol dire che da due nuclei di... praticamente di due nuclei di idrogeno viene creato un nucleo di elio. praticamente si prende del deuterio, che è un isotopo dell'idrogeno, che c'ha dentro un neutrone oltre a un protone. Se lei prende due atomi di deuterio, li fa collidere, diciamo, li fa i nuclei, li fa schiacciare l'uno contro l'altro, abbiamo un nuovo nucleo che ha due protoni e due neutroni, che è il nucleo dell'elio, con produzione di energia e con rilascio, se ci fosse oltre al deuterio anche il trizio, di un neutrone che può andare a bombardare un'altra parte. Adesso questo lo sto dicendo in parole povere, se vuole l'avevo fatto anche delle slide, posso anche far vedere. Comunque, questo è stato fatto, l'ho visto io, la produzione di elio, lo vede sullo spettrografo, non è una prova, vada a Frascati e si faccia dare, legga la relazione che si trova anche su internet, la relazione che è stata scritta e firmata anche da Rubbia. Allora, se diciamo che Rubbia ci ha raccontato delle panzane, lasciamo perdere, insomma, il premio Nobel che ci racconta delle bugie. No, quello che dice è perché gli stati come Stati Uniti, Giappone, Cina, che hanno così bisogno di energia, perché stanno... Ma chi è che elegge il Presidente degli Stati Uniti, signora? I petrolieri. I petrolieri non possono bere, ma cosa c'è? Ma dove, a parte il fatto, tutti i Kyoto e Doha, tutti i trattati così, perché ma hanno bisogno di energia e non sfruttano una cosa così. Ma certo, continuano a sfruttare il petrolio, perché il petrolio costa sempre di più. Ma il petrolio sanno già che sta finendo. Sì, ma c'è nelle grosse profondità e questo costa di più e consente di guadagnare di più. Perché se lei pensa che la benzina in America costa un decimo di quello che costa qua, pensi un po' quanto. Quando arriva il petrolio estratto o venduto dagli americani, quando arriva al consumatore finale, pensi un po' quanti ci hanno guadagnato sopra. Come farebbe a guadagnare? Voglio dire, con la fusione fredda è un apparecchietto che ci si può costruire, come dice il professor De Giudice, con attrezzature da banco. Cioè si potrebbe, è una cosa di una banalità. Volete vedere forse queste, volete vedere un attimo queste, sono molto interessanti. E avete ancora 5 minuti? 10 ecco, forse. Qui stavo facendo vedere, su questa slide si vede come avviene la fusione, diciamo, la fusione nucleare. Questa 10 milioni di gradi per innescarla, cioè ci sono dei nuclei di deuterio, che è un isotopo dell'idrogeno, vale a dire ha la stessa carica elettrica dell'idrogeno, però c'ha una zavorra di un neutrone. C'è il trizio che ha la zavorra di due neutroni, ma è sempre un nucleo positivo. E si fondono e fanno. E questo avviene tramite dei materiali. E sa perché noi ci siamo imbattuti in questo? Perché stavamo cercando, e esiste, la possibilità di stoccare l'idrogeno e fare uno stoccaggio dell'idrogeno in materiali che sono detti spugne, come spugne. Praticamente l'idrogeno viene immagazzinato in queste spugne, viene rilasciato col calore e lo si può utilizzare per le macchine a idrogeno, per motori a idrogeno e così via. E studiando questo, i Fleischmann e Pons, che l'avevano studiato, si sono accorti che nello stoccare questo idrogeno si avevano dei fenomeni di praticamente fusione nucleare. È stato un caso, come sempre avviene, di questa scoperta. Quindi non c'è niente di trascendentale, neanche di magico in tutto questo. Qui sono Fleischmann e Pons, sì, ecco questo. Non sono più riusciti a riprodurla. Ma sì che si riproduce quando si vuole. L'hanno fatta addirittura con calorimetri grandi così, l'hanno fatto con polveri di... Perché dice che non sono riusciti a riprodurla? Perché non sono più riusciti a riprodurla Fleischmann e Pons, la fusione fredda. Ma questa è la storia ufficiale. Ma non se è vero, li hanno fatti, non li hanno fatti più lavorare. Cioè, esiste la fusione fredda, noi continuiamo a costruire le centrali nucleari. Non li hanno fatti più lavorare. Sì, cioè non gli hanno consentito di fare, ma lei non può autofinanziarsi una sperimentazione. Loro si sono finanziati fino a che hanno potuto. Qui è un bastoncino di palladio, diciamo che avrà costo di 50-60 euro, come voglio dire. Ma adesso addirittura ci sono calorimetri miniaturizzati, dove con delle polveri di palladio non occorre neanche metterci una. Ecco, comunque praticamente. No, ma lì c'è scritto perché? Perché è stata screditata la fusione fredda? Perché la scoperta di un'energia a basso costo e pulita sposta gli interessi di chi fino ad ora ha guadagnato vendendo energia e armi, petrolieri e venditori di armi, sette sorelle, multinazionali di armi, eccetera, e il business di coloro che smaltiscono rifiuti tossici e radioattivi. L'utilizzo della fusione fredda renderebbe inutili gli enormi finanziamenti destinati allo studio della fusione termonucleare tradizionale. I più grandi nemici della scienza sono gli scienziati ufficiali. quelli che stanno studiando la fusione calda, fusione non fredda, la fusione nucleare calda del progetto ITER, hanno finanziamenti di miliardi e miliardi di euro, di dollari, di quello che vuole lei, e vuole che accettino di buttare via tutto, di non lavorare più, per lasciare lo spazio. Cioè, noi siamo un paese che non ha energia, né? Non ha materie prime, non ha centrali nucleari, non ha praticamente nulla tranne il sole. Lei mi vuole far credere che... Perché secondo lei hanno valorizzato i pannelli fotovoltaici, hanno tolto tutti i finanziamenti di recente. Maggior ragione. Questo le fa capire che ci sono interessi maggiori dell'interesse nostro, della comunità. Gli interessi sono di quelli che vogliono... Lei è giovane e beato lei che può credere ancora, diciamo, a... No, io credo che queste cose non possono essere... costrette e schiacciate. Forse non per sempre, non per sempre. Prima lei ha fatto fuori a sette sorelle, basta avere, abbiamo la guerra che c'è nella Afghanistan, quella roba lì dell'Andico. E poi tutte, a chi vendiamo noi stessi, che l'Italia è uno dei maggiori produttori di armi, a chi vendiamo? Ai popoli diseredati, che li vuole vendere a fusione fredda, li vuole vendere bombe atomiche, ma no, li vende ai carri armati vecchi, i vecchi proiettili, i residui delle centrali nucleari che sono uranio sporco, così si ammazzano meglio, no? Perché così muore un po' di gente e ce ne sarà di meno sulla terra. E questa è la filosofia che c'hanno oggi, che c'è oggi, insomma, purtroppo è così. Chiedo scusa, ma io non riesco a capire i poteri che detengono questa possibilità della fusione fredda. Ufficialmente cosa dicono? Noi non la utilizziamo perché vogliamo guadagnare di più? Cioè, no, semplicemente dicono delle scuse. Infatti, che scuse dicono? Dicono quello che quella gente crede, che non funziona, che non è riproducibile, che può fare soltanto. Con la fusione fredda si può raggiungere praticamente quella temperatura che il 50% dell'umanità ha bisogno. No? 50% dell'umanità utilizza una temperatura non superiore a 70, energia che non vada al di sopra dei 70 gradi. La fusione fredda potrebbe contribuire alla metà dell'energia che l'umanità necessita. Ma se ci sono persone, diciamo, e scienziati che possono dimostrare e controbattere a questi discorsi... Ah, ma li accoppano, scompaiono. Ma se sono tanti, cioè non è che possono fare una strage. Questo che non riesco a capire io. Beh, comunque succede, sono messi a tacere, gli danno i soldi, guardi, no, oggi. Capisco, ma se oggi la gente, la gente vende i propri ideali per 50 euro, come fanno certi politici che si vendono per 50 euro, ma vuole che non si vendano per qualche milione di euro o di dollari questi scienziati, gli danno una bella casetta, vivono tranquilli, dice, stai lì, non rompere le scatole, ti diamo tutto quello che avresti guadagnato, più di quello che avresti guadagnato lavorando. E comunque vorrei mettere l'attenzione sull'ultimo di questi punti. Nessuno vuole ammettere che il mercato delle pallottole nucleari usate in Libano, in Iraq e in Kosovo è in piena espansione. E mi dispiace dirlo, lo facciamo anche noi in Italia. Abbiamo mandato le nostre bombe. Abbiamo avuto un bel dibattito. Abbiamo buttato le nostre bombe e adesso...